La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qui puntuali come ogni fine settimana, come ogni sabato sera, per raccontarvi tutto il cinema che c'è. La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, settimana che fa da trampolino fra Venezia e l'alta stagione del cinema, l'autunno foriero di tante novità. Pensate, questa settimana 10 nuovi film in sala, la settimana prossima 13, e sarà così fino a Natale. Quindi noi ci saremo come sempre per raccontarveli questi film, per darvi dei consigli, per farvi giocare, per raccontarvi anche il cinema da vedere fuori dalla sala. Ma in sala bisogna andarci, perché è lì che il cinema diventa cinema. E allora, Tutte lo vogliono è il primo film di cui vogliamo parlarvi, commedia italianissima con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, insomma alcuni dei protagonisti delle commedie popolari più riuscite degli ultimi anni. Un film che racconta una sorta di disagio, quello di alcune donne, Giovanna, Francesca, Chiara, Carla, che hanno una sorta di mistero che condividono. Chiaramente un mistero condiviso e fortemente voluto, come nel titolo, da molte donne, non può che essere un uomo. E quindi ascoltiamo la clip e ne parliamo. Vorrei incontrare il GPS. Bene! Ok. Allora, senti, facciamo così. Io adesso sto partendo per un viaggio di lavoro. Appena rientro, tra tipo una ventina di giorni, ti organizzo un incontro. No, no, fra una ventina di giorni no, mi serve subito. Senti, Francesca, ti prego, guarda, io neanche con questo ci riesco. La paperella? Ok, dammi il tuo indirizzo, così ti scrivo. Passeggiata di Ripetta al 22. Bene. Allora, numero uno, sii discreta. Secondo, non fare domande personali. Ok. Terzo, anche se all'inizio ti farà fare cose che ti sembreranno, diciamo, un po' assurde, tu assecondalo. Hai capito? GPS, generoso partner sessuale. Insomma, avete capito cos'è l'oggetto del desiderio, e anche il titolo stavolta va un po' più sullo spudorato del solito. Tutte lo vogliono. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Boris, potremmo dire, parafrasando un altro film di qualche anno fa, quello che le donne dicono. Quello che le donne dicono, anche troppo, diciamo, perché c'è una scena poi di una specie di gruppo di recupero per anorgasmiche, perché il problema che hanno Vanessa Incontrada, Ilaria Spada e tutto questo gruppo di donne che dicevi è il fatto che fingono a letto, come pare il 44% delle donne in Italia, e questo dovrebbe preoccupare noi uomini, sia perché sentono il bisogno di non dircelo, sia perché questa cosa accade, un po' di colpa inevitabilmente è sicuramente anche nostra. Al di là però dell'autobiografia, bisogna dire che Tutte lo vogliono racconta un problema che normalmente non viene narrato nella cinematografia italiana, e questo è un merito. Racconta il sesso, tra l'altro senza mai vedere chissà quanti centimetri di pelle, quindi per la strada più difficile. Va un po' sezionato Tutte lo vogliono, perché un film, a mio parere, non riuscito per via del fatto che Enrico Brignano inevitabilmente al cinema, inevitabilmente perché non è mai riuscito a sfondare il grande schermo, non rende come nei monologhi a teatro, non sa portare quel carisma che gli fa riempire a volte anche gli stadi, seppur del tennis, o i teatri anche da mille posti, al cinema. Forse perché è talmente bravo nel monologare che poi nel momento in cui deve recitare, deve costruire un personaggio che non è lui stesso, fa fatica a crederci lui per primo. Qui hai l'impressione che ci sono anche le battute giuste in bocca di Enrico Brignano, e magari non sono le sue, anche questo lo mette a disagio, ma lui nel personaggio non si sente a suo agio. Mi direte, non è facile sentirsi a proprio agio dentro un costume da cane in peluche, sarà anche molto caldo, però questo è il fatto. Più brava Vanessa Incontrada, che nella parte di questa borghese di buona famiglia con una madre piuttosto antipatica, con questo problema che non immagineresti mai, no? Visto la sua fisicità, la sua bellezza, riesce a rendere credibile il suo personaggio. La sceneggiatura forse soffre di troppi galli a cantare, sono ben sette con i sceneggiatori, e vive di battute azzeccate, soprattutto quelle riguardanti la commedia degli equivoci, e dialoghi invece meno appassionanti, soprattutto nella seconda parte, quando si tira sulla commedia sentimentale. Però c'è anche da dire che, per esempio, la regia di Alessio Maria Federici, che ha fatto un remake, ha fatto un sequel, ha fatto un film su commissione, adesso si ritrova a fare un film un po' suo e un po' no, con un cast molto particolare, invece sembra una regia molto interessante, un po' alla Farrelly, dove ci si mette a cercare il sentimento anche esibito, di parlare di un titolo spudorato. Il film è tutto spudorato, sia quando è melodramma sia quando è commedia degli equivoci. C'è molto di commedia americana alla Farrelly in quella prima parte, in cui il doppio senso è estremamente affilato, è quasi un unico senso che tu devi sforzarti di rendere doppio. Quindi buona regia, un protagonista purtroppo non azzeccato, e questo dispiace. Probabilmente l'amico di Brignano, il buon Perroni, anche imitatore, sarebbe stato più adatto. Sono molto interessato a vedere i prossimi film di Alessio Maria Federici, molto meno a vedere i prossimi di Enrico Brignano, devo essere sincero. E con questo giudizio tranchant ma molto motivato di Boris Sollazzo, noi sentiamo come vanno le cose sulle strade, perché fra poco altro giro, altra doppia corsa con altre due pellicole che arrivano dal Festival di Venezia. Abbiamo parlato diffusamente la settimana scorsa, lo rifaremo anche fra un po', commentando un po' anche quello che è stato l'assegnazione del Leone d'Oro. Si tratta dell'Attesa e di Per Amor Vostro, e poi state con noi perché vi prepariamo una bella parte dedicata a Inside Out, che è partito subito fortissimo nelle sale. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea, chiusi i battenti alla Mostra del Cinema di Venezia. I film continuano a rimbalzare nelle sale cinematografiche italiane, è il caso di due pellicole questa settimana. Partiamo con il raccontare L'Attesa, bel titolo, di Piero Messina, con cast internazionale capitanato da Juliette Binoche. La storia di un'attesa, appunto, come dice il titolo, quella di un figlio atteso nell'entroterra, una villa, bellissima villa dell'entroterra siciliano. Il figlio della protagonista, che è fidanzato della coprotagonista. Questa attesa di fatto si trasforma nel motivo d'essere del film e del racconto di una relazione che il film mette in scena. How did this come to be? Che ci fai in Sicilia? Aspetto il mio ragazzo. Sono ospite di sua madre. My heart is beating in a different way. We've gone such a long time. Perché le fai questo? Dì la verità. Allora, Boris, dicevamo, film che arrivano da Venezia. Piero Messina abbastanza impressionato, perché è un regista anche molto giovane, quindi con molto da dire. Questo è il suo esordio alla regia, per lui che è stato anche sceneggiatore, ma che in un film del passato era stato anche autore delle musiche, quindi artista anche poliedrico. Sì, e in effetti il talento di Piero Messina si vede nell'Attesa, si capisce che il ragazzo si farà, anche se forse in questo film ha le spalle un po' strette, non ha il coraggio di caricarsi sul corpo e sulla propria macchina da presa un film realmente ambizioso. L'Attesa sembra non solo il titolo del suo esordio, ma anche un po' la recensione. Hai come l'impressione che la premessa sia ottima, che il talento ci sia, che ci sia anche la capacità di scegliere delle attrici e un cast in generale molto adatto, che ci siano le idee e anche il soggetto, ma che il film si faccia appunto attendere. E questo perché? Perché il film ha il suo rischio, chiaramente. Raccontiamo la trama senza timore di spoiler, perché è qualcosa che si svela immediatamente. Il film inizia con un funerale. Il funerale è il funerale del figlio di Juliette Binoche. Juliette Binoche è disperata, che vive in Sicilia, essendo francese, segue le tradizioni siciliane, quindi copre gli specchi di nero. Si preparerà poi per una processione tipica di quei luoghi, e riceve una telefonata di Lou Delage, che è questa attrice bellissima, questa ragazza nel fiore degli anni, che a cui il figlio aveva detto di raggiungerlo nella propria casa siciliana. Si capisce che doveva esserci una riconciliazione, qualcosa di importante nella storia d'amore tra i due. Lei si attacca a questo ricordo, si attacca a questo sentimento per illudersi che la tragedia che ha appena vissuto non sia accaduta, e le dice di venire, non le dice che è avvenuta questa tragedia. L'attesa è proprio quello. È bravissimo Piero Messina, secondo me, nel dirigere queste due brave attrici che creano subito una grande alchimia. Quando il film si concentra su loro due, il film è riuscito. Quando Piero Messina ha l'ansia di dimostrarci quanto può essere bravo, quanto può essere anche allievo del suo maestro Sorrentino, a cui ha fatto da assistente alla regia, allora il film si perde, perché ci sono delle scene troppo estetizzanti, si esce fuori da questa tragedia per cercare qualcosa di universale che forse in una storia come questa non ci deve essere, e il film si perde, e hai l'impressione di aver visto una partita persa alla fine dal regista. Ma a tratti giocata molto bene, ecco, deve trovare il modulo giusto, deve trovare la voglia di andare a fare gol e non solo di fare il tiki-taka. C'è una cosa, per esempio, che dà il valore anche della direzione degli attori, che è il volto, la maschera sofferente di Juliette Binoche. Ecco, io Juliette Binoche così non l'ho vista tante volte, diretta in questo modo. Verissimo, verissimo. Infatti sicuramente nel mettere gli attori in campo Messina si dimostra bravissimo. Io penso anche a un'altra maschera molto tragica, che è quella di Giorgio Colangeli, che sembra essere il domestico di casa, ma una persona estremamente vicina alla famiglia, e che in qualche modo rappresenta la sua coscienza, e lui dice poche parole, ha sempre questo viso molto concentrato, contrito, e però riesce a dare la cifra del dramma che si sta vivendo e che sta implodendo all'interno di questa casa enorme. E come dici tu, appunto, la Binoche, io forse così l'ho vista solo diretta da Abel Ferrara in Mary, così capace di farsi percorrere da un dolore senza dover gigioneggiare o esporre chissà quale talento che poi ha da vendere. Lavora molto per sottrazione e anche con una sua leggerezza, tra l'altro, perché poi nel vivere questo rapporto con quest'altra donna c'è anche molta della gioia che è stata repressa da un matrimonio che in fondo ha avuto una conclusione infelice, e appunto un figlio che si è goduta troppo poco. E allora questo per quanto concerne l'attesa di Piero Messina. Noi adesso giochiamo insieme e rigiochiamo, perché non siete stati bravi la settimana scorsa. Sono molto molto deluso dai miei ascoltatori, non avete indovinato il film della scorsa settimana. Ma amici, ma sono 15 anni che facciamo il game e non avete indovinato un film. Allora, o è troppo difficile, ho paura che sia davvero così, o dobbiamo riprovarci. Allora ci riproviamo anche questa settimana, ma stavolta vi aiuto un po' di più, sentiamo. Signora, voi non entrate? Il più sublime atto d'amore dovrebbe restare segreto. Segretissimo, amore mio. È uno scandalo! Oh. Avete sentito sotto prima una voce che arriva da un grande schermo e poi qualcosa che accade davanti al grande schermo. Insomma, un film sul cinema, un film nel cinema di un grande regista italiano, uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi. Allora, sforzatevi un attimo, che film è? Vi dico che è stato l'ultimo film di questo grande regista. La Rosa Purpurea, @radio24.it, e il DVD di questo film è lì ad aspettarvi. Più tardi vi darò un'altra ultima possibilità. E adesso andiamo avanti con i film da Venezia a Milano, perché ce n'è uno che c'entra dal vivo, dal vero, con il palmarès. È Per amor vostro, con Valeria Golino. Per me amore è una parola che non sento quasi più. Però mi vuole bene, tanto bene. Però mi vuole bene, tanto bene. Vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. Anna, che luogo dove sviene? Speravo. Anna divenne negletta nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima. Così riceva nato filosofo. La conoscete Napoli, è che la querè. Allora, abbiamo parlato quindi di Valeria Golino, ma il film di Giuseppe Gaudino mette in campo anche un cast maschile, con Adriano Giannini, con Massimiliano Gallo, però insomma la dominatrice di questo film è senza dubbio il personaggio di Valeria Golino, premiata con la Coppa Volpi tanti anni dopo la sua prima Coppa Volpi, proprio a Venezia. Una Napoli contemporanea, una donna che piano piano ha spento i suoi ardori e personali e civili, finendo in una sorta di nichilismo senza via d'uscita. Boris, c'è la fotografia proprio in giorni come questi, in cui si ragiona appunto sul futuro, sul destino, sul presente di Napoli, sulla sua capacità di reagire alle cose che la cronaca le mette di fronte, un film che sembra quanto mai a orologeria. Assolutamente sì, e così non è, nel senso che Gaudino, vivendo Napoli, ha sentito potentemente questo afflato di una città che è costantemente in controtendenza con l'Italia, no? Quando è in crisi Napoli è estremamente vitale e viceversa, e Gaudino è stato capace di anticiparlo, perché questo film nella sua ideazione è estremamente anteriore a quello che poi vediamo succedere adesso nell'attualità a Napoli. E, diciamolo subito, la Coppa Volpi a Valeria Golino è assolutamente giustificata, assolutamente meritata. Forse io avrei dato qualche speranza in più ad Alicia Vikander in Danish Girl, ma davvero Valeria Golino è una mattatrice in questo film straordinaria. Senza di lei probabilmente Gaudino non avrebbe raccontato quello che è un film particolarissimo. A me viene in mente una definizione che è cinesceneggiata, no? Quel tipo di racconto sopra le righe, che utilizza molto le musiche, che utilizza molto la mimica degli attori, la capacità di andare dritti al cuore anche in maniera triviale, ma nel senso buono. E anche però un'eleganza formale molto forte, questo, l'uso del bianco e nero, l'uso di momenti onirici, pastellati, molto particolari. Ecco, in una Venezia in cui tutto quello che ci è piaciuto è molto classico ed è venuto molto dagli anni 70, Gaudino è riuscito a parlare una lingua sua, Gaudino è riuscito a fare un cinema indipendente d'autore in cui il linguaggio è un esperimento. Inoltre Gaudino ha questo grande vantaggio di scegliersi il cast giusto. Adriano Giannini è molto divertente in questo ruolo in cui deve anche ironicamente mettersi in gioco, in cui deve essere un attore sbagliato, se vogliamo. C'è poi un Massimiliano Gallo che a me fa sempre soffrire ogni volta che lo vedo, perché trovo che abbia un talento straordinario e non gli venga riconosciuto quanto merita, e qui fa la parte del cattivo in una maniera meravigliosa, eccessiva, anche difficile da sostenere, ci riesce solo grazie al suo talento. E poi c'è questa Valeria Golino che riesce ad essere sexy, goffa, divertente, un po' bastarda, madre, figlia, amante, è davvero qualcosa di straordinario. Ecco, Valeria Golino in questo senso e in questo film è veramente Napoli, è una specie di vulcano dormiente che vediamo eruttare e poi tornare tranquilla e riprendere possesso della sua città e della sua vita. Ecco, è una Valeria Golino quasi vesuviana, quindi io sono contentissimo che sia tornato Gaudino e sia tornato così bene, e che Valeria Golino, come forse non le farà piacere questo complimento, ma come i vini, più passa il tempo e più è buona, e più è potente, e più il suo gusto particolare è variegato. È davvero qualcosa di straordinario. È una Coppa Volpi meritatissima, e fa piacere che ne abbia vinte due, uno proprio all'inizio e uno adesso in cui sta vivendo una nuova giovinezza. Tanto poi il tempo passa lo stesso, quindi alla fine penso che sarà contenta anche Valeria di queste tue parole. Allora, restate con noi, perché fra poco chiedo a Boris un lapidario commento sul Leone d'Oro, perché dobbiamo anche raccontare quello, e poi attenzione, vi aspetta Inside Out. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, terza parte, fra poco Inside Out, davvero il film della settimana e sicuramente non solo. Ma prima Boris Sollazzo, abbiamo chiuso quello che è il capitolo Venezia per quanto concerne i film arrivati in sala in questo fine settimana. Ti chiedo però una valutazione, come dicevo, così, d'impatto sul film che ha vinto il festival. Si è parlato di un, ricordiamolo, il titolo è Desde Allah di Lorenzo senso Vigas, film venezuelano, non è una cinematografia, come dire, di quelle abituate a stare ai vertici del festival internazionale. Qualcuno ha scomodato Alfonso Cuarón in giuria per dire che insomma c'era un po' di filo americano latinismo, chiamiamolo, ma ti chiedo, il film meritava il Leone d'Oro? Allora, meritava sicuramente il premio di De Laurentiis che va agli esordi, no? Il leone per le opere prima, perché il film di Vigas ha comunque una sua potenza anche riguardante il fatto che davvero un esordio così si vede raramente. Forse il Leone d'Oro non lo meritava, ma ha sfruttato il fatto che questo concorso di Venezia non era particolarmente nutrito di capolavori e neanche di opere buone, di buona fattura, e quindi in questo panorama sicuramente Vigas era uno dei migliori. L'hanno etichettato come film a tematica omosessuale, secondo me invece è più un film sull'inadeguatezza dell'amare e dell'amore, soprattutto quando va a cozzare con determinate considerazioni sociali, e ha anche delle visioni abbastanza scomode su questo, quindi è un buon film, insomma, non mi strappo i capelli perché ha vinto il Leone d'Oro, io forse non gliel'avrei dato personalmente, non mi sento però di criticare Cuarón, perché il film, il premio a Vigas come il premio a Trapero sono premi giustificatissimi da un Sud America che vive una primavera cinematografica straordinaria e allo stesso tempo a due dei migliori registi comunque visti a Venezia. E ricordiamo che i film di Venezia potranno essere visti anche a Milano, non tutti ma molti, 42 film fra i Pardi di Locarno e i film di Venezia dal 21 al 28 settembre nell'ormai come dire storica rassegna che è Le Vie del Cinema, panoramica dei film di Venezia e ripeto adesso anche di Locarno a Milano. Venezia a questo punto appartiene al passato, appartiene alla storia, noi invece vogliamo darvi un presente e soprattutto un futuro da vincitori con il nostro game. La noce come piena, della sol del cielo. Che te la pongo, che te la pongo. Signora, che cos'è? Il cinema? È proprio il cinema il luogo in cui si svolge questo film, come avevo detto, omaggio al cinema di un grande regista italiano, scomparso nemmeno un anno dopo aver fatto questo film, è stato il suo ultimo film, regista milanese di nascita che ha firmato alcuni fra i film più belli dell'essai italiano, diciamo così, no? Adesso ve lo dico, vi dico un titolo, poi adesso dovete far tutto voi, pensiamo alla grande buffata, tanto per dirne uno. Ecco, allora, no, perché se adesso se indovinate così, allora vuol dire che non ci meritate. Allora, la rosa purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in DVD di questo film che recensiremo dovutamente, visto che ce n'è bisogno evidentemente, la prossima settimana. Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Lo avete notato anche voi? Sì, altro che. Qualcosa non va. Dobbiamo scoprire cos'è successo, ma ci servirà un aiuto. Invia segnale al marito. Che cosa ha detto? Come? Oh, spiacente, signore, non stavamo ascoltando. La spazzatura, la tavoletta del water alzata. Che vuoi, donna? Cosa? Riley, com'è andata a scuola? No, vogliamo scherzare! È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano. Signore, ha appena alzato gli occhi al cielo. D'accordo, fare la voce grossa. Basta, vai in camera tua. Mano pesante lanciata, mano pesante lanciata. Sì! Ottimo lavoro, signori. Avete mai pensato che dentro il vostro cervello ci può essere un burattinaio misterioso con 5 collaboratori che pigiano i tasti di una console della memoria, dei ricordi, per farvi sentire tristi, gioiosi, disgustati, stanchi? Ma avete mai pensato che cosa succeda dentro le camere del vostro cervello? Si parlava ogni tanto dell'anticamera del cervello. Ecco, qui siamo nelle camere, nelle stanze del cervello, nella cabina di comando delle nostre emozioni e del nostro comportarci quotidiano. Insomma, siamo o non siamo governati da qualcosa che è più forte di noi, è superiore a noi e sta dentro la nostra testa? E questo è quello che cercano di raccontare con Inside Out gli artefici di questo straordinario film Disney Pixar, Pete Docter il regista, con una capacità di andare dentro e fuori la nostra testa, che è davvero mirabolante. La storia di una ragazzina, Riley, 11 anni, una vita che corre felice in uno stato centrale degli Stati Uniti, freddo, ma anche così molto rustico come il Minnesota, e che a un certo punto con la famiglia si trasferisce a San Francisco. Ma non è la San Francisco solare che tutti si aspettano, una casa che deve dare ancora il meglio di sé, o che forse l'ha già dato, un padre alle prese con anche qualche problema finanziario, insomma una vita che stenta a decollare, una scuola che ti accoglie come l'ultima arrivata, come quella che ancora deve farsi accettare da tutti. Insomma, il passo indietro è come dire dietro l'angolo, e se fosse un passo indietro governato, e se fosse un passo indietro raccontato dagli artefici del film come una decisione spinta da appunto personaggi buffi che si impadroniscono del nostro cervello. Boris, un film, dicevamo prima fuori onda, che dovrebbe contare sul concetto di durata percepita, come si fa con il caldo afoso d'estate, perché dura 1 ora e 45 minuti. Io non ho mai guardato l'orologio, ho scoperto alla fine che sembravano di fatto 80, cioè un film che ha una sceneggiatura talmente perfetta che scorre via in un attimo, commuovendoti, emozionandoti, facendoti piangere, facendoti ridere, davvero straordinario. Guarda, è la più bella recensione che si possa fare, sono pienamente d'accordo con te, non pensi minimamente alla durata, hai l'impressione che tu abbia ancora mezz'ora, un'ora da vedere quel film, e nello stesso tempo è di una densità contenutistica e formale straordinaria, perché viaggia su 3 piani diversi, sul piano della realtà, sul piano della psicologia e sul piano di una visione psichedelica di quello che succede nel nostro cervello. Ecco, diciamo sempre, no? Questo mondo è una gabbia di matti, ma la verità è che la gabbia di matti siamo noi probabilmente, cioè di 5 simpatici matti che assomigliano vagamente ai Muppets. Ecco, io devo dire, conoscendo me stesso, non mi stupisce di avere in testa dei Muppets, però non pensavo che qualcun altro potesse immaginare che Jung avesse raccontato la nostra psiche in quella maniera là, cioè con 5 personaggi infantili, racconti, strani, anche in rivalità tra loro, ambiziosi, che devono governare la mente di una piccola bambina. Vediamo anche quella dei genitori, e quello è il momento della parodia, del divertimento, insomma l'abbiamo sentito, no? È per lui che abbiamo lasciato questo pilota brasiliano, e si vedono le 5 donne che albergano nella mente della mamma, rimpiange questo fantomatico ex fidanzato. E però Inside Out è un capolavoro, mi verrebbe da dire il solito capolavoro della Pixar, dove solito è l'arrendersi alla straordinaria forza di questa factory che riesce davvero a dare corpo al nostro immaginario. È un film divertentissimo, è un film divertentissimo dove riderete tantissimo, ed è un film struggente. È un film struggente perché scoprirete quanto è stato importante per voi l'amico immaginario, e vorrete recuperarlo con tutte le vostre forze, anche se avete 37 anni, 50, 70. Scoprirete che ci sono dei mondi interi dentro la vostra mente che voi li avete demoliti, e questa è una cosa che vi distruggerà al pensiero, perché probabilmente ha lavorato sul vostro inconscio e Inside Out lo realizza. E scoprirete che la vita è una battaglia, ed è una battaglia che spesso si gioca con armi buffe, con armi strane, che si gioca con alleati strani. Scoprirete anche che la vostra memoria è una biblioteca enorme, più di quella di Alessandria, che voi vi sforzate di distruggere, che comunque nasconde tutto ma non perde nulla. Inside Out è tutto questo. Inside Out siamo noi raccontati come dovremmo essere raccontati. È un film pedagogico, perché andrebbe fatto vedere a tutti i figli, ma andrebbe soprattutto fatto vedere a tutti i genitori. Forse così sarebbe più facile raccontare chi siamo e cosa dovremmo diventare, ma è anche un film estremamente politico, perché racconta anche il sogno americano, no? Quella San Francisco che tu dicevi, e come può incidere sulla nostra psiche. È un film straordinario, è un film eccellente, è un film che dovete vedere. Temo che sarà anche il nostro film dell'anno. Aspetta, Gioia, potresti perderti. Pensa positivo. D'accordo, sono positivamente certa che ti perderai. Quella è la memoria a lungo termine, un labirinto di corridoi e scaffali, l'ho letto nei manuali. I manuali? I manuali! Tu hai letto i manuali? Sì. Quindi sai come tornare al quartier generale. Andiamo, guidaci mia mappa. Dove dobbiamo andare? Va bene. Da che parte? Sinistra? Destra. No, volevo dire sinistro, ho detto destra, ma intendevo sinistro. Qui abbiamo sentito come viene ricostruita appunto la stanza della memoria, una cosa a livello scenografico davvero impressionante, con tutte queste sfere luminose che sono i nostri ricordi, che vanno ordinatamente a mettersi dentro gli scaffali, dove noi non li ricordiamo più, non li conosciamo più, ogni tanto passano gli spazzini a tirare via quello che non serve più e a buttarlo nel dimenticatoio. Ecco che anche il dimenticatoio qui ha una dimensione, ha una forma, ha un'immagine, davvero straordinario. 351 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti. In Italia ovviamente è uscito di mercoledì e il primo giorno era già il film più visto. Abbiamo trovato l'avversario dei Minions sicuramente per questa stagione. Minions che hanno nel frattempo superato i 20 milioni e mezzo di incasso globale. Ma insomma, al di là della battaglia del botteghino, come sempre e come diceva giustamente Boris, il solito capolavoro della Pixar. Magari negli ultimi tempi ogni tanto il solito è stato un po' meno solito, però ecco, qui siamo ritornati decisamente sui livelli di Up, sui livelli di Wall-E, sui livelli di Toy Story, sui livelli di una serie di cose che ti mettono di fronte a te stesso. Ecco, questo è il grande risultato che ottiene Inside Out. E allora, linea alla regia, ancora viabilità, fra poco torniamo insieme, gran finale della Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, Rosa Purpurea, gran finale, dicevamo, ci sono ancora due film, si è fatti prendere da Inside Out, ma era giusto, ancora due film di cui vogliamo darvi segnalazione, due film in costume, due film dall'aria vagamente romantica, si intitolano uno Marguerite, l'altro Via dalla pazza folla. Boris, una frase per uno, non fa male a nessuno, e così segnaliamo anche queste due presenze. Ma diciamo che è una frase che li mette anche in competizione. Marguerite è un film su che cosa dovrebbe essere la nostra identità secondo il nostro cuore e secondo la razionalità percepita dalla società. Si può essere un soprano dentro di sé perché la musica è tutto per te, ma esserlo al di fuori. E costruire su questo un melodramma che, se vi piace il più classico dei classici melodrammi francesi, con un soggetto molto particolare che è quello di una soprano stonata a cui nessuno ha il coraggio di dirlo, può andare bene. Su Winterberg parlavamo del solito capolavoro della Pixar, parliamo del solito Winterberg che ha la capacità di raccontare storie molto diverse tra di loro, anche appunto in costume e non in costume, dure e non dure, ma che mette quella sua sensibilità particolare per le relazioni all'interno del film, che ti sconvolge sempre un po', perché riesce ad entrare nella banalità di alcuni soggetti, e parliamo sia soggetti cinematografici sia soggetti personali, e tirarne fuori in maniera originale quello che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti noi e che invece non notiamo mai, no? Quanto siamo una pazza folla ed effettivamente non ce ne accorgiamo. Quindi Winterberg vince secondo me su Giannoli, che è più lineare. Sono due film tra virgolette polpettoni e in costume, che devono avere però un pubblico educato, un pubblico che apprezza il genere, per essere apprezzati al meglio. Boris, grazie per la brevità, soprattutto gran pregio, come diceva Puccini, e noi ci risentiamo la prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, tanto cinema in sala, ma tanto cinema anche sul palcoscenico. Sapete che la Rosa Purpurea ha sempre un angolo dedicato in trasmissione, nel suo cuore, a tutto il cinema che c'è, anche fuori dal grande schermo. In questo caso parliamo di un musical, sempre di più il musical prende, attinge dal cinema e viceversa. Sul palco del Teatro Nazionale di Milano è in scena fino al 22 ottobre The Blues Legend, il musical, e quel Blues Legend non può che occhieggiare, parliamo di occhiali scuri però, al capolavoro dei Blues Brothers, al capolavoro anche di una musica blues che va oltre quel film, che già era stato una sorta di capostipite e di riassunto vivente di un genere, ma anche di un modo di vivere. È con noi in collegamento telefonico Loretta Grace, che io ringrazio tantissimo perché oltre ad essere bravissima, bellissima, è anche una delle più grandi interpreti, forse, fammi dire Loretta, la più grande in Italia in questo momento del musical, e soprattutto del musical con un'anima blues, con un'anima soul, come in questo caso. Ciao e benvenuta alla Rosa Purpurea. Ciao. Ciao, grazie mille. Allora Loretta, raccontaci un po' il tuo rapporto con quel film, con quel genere, con questa musica, con queste canzoni. Beh, ovviamente, come già detto tu prima, è un omaggio alla musica rhythm and blues. Io sono cresciuta con questo tipo di musica perché mio padre era amante di questo genere, mia madre lo stesso, e come, insomma, per me è veramente gustoso fare questo spettacolo, cioè mi piace tantissimo cantare queste canzoni. Io canto Pink, poi vabbè, a parte questa canzone qua ci sono le famosissime, quelle dei Blues Brothers, quindi Everybody Needs Somebody, Give Me Some Lovin', Sweet Home Chicago, Soul Man. Ci sono artisti che sono stati anche integrati come Etta James, James Brown, e poi c'è anche ovviamente Ray Charles, cantiamo anche delle cose di Ray. Per me è veramente bellissimo, ma poi è anche bello vedere il pubblico che a fine spettacolo si alza in piedi, che è coinvolto al 100%. Io ogni sera siamo veramente... il pubblico ci ridà l'energia che noi diamo sul palco, e questa è una cosa molto molto molto bella. Senti Loretta, hai detto canto Think, e non è una roba da poco, insomma. come ci si relaziona a un brano di questo tipo, dove devi stare attento perché ogni cosa che fai può essere paragonata alla signora del piano di sopra, insomma. Certo, sì. Beh, è stata abbastanza non voglio dire difficile, però comunque complesso paragonarsi a un colosso del genere. Comunque Aretha Franklin è la soul woman, la diva del soul, quindi non è stato semplice, però devo dire che ho trovato la mia chiave per, insomma, interpretarla, anche perché comunque questo musical non è la trasposizione del film. C'è una storia, c'è un'altra storia, insomma la trama è completamente diversa, ci sono delle citazioni del film, quindi ovviamente le persone potranno riconoscere in alcuni punti queste citazioni, però comunque anche se canto Think lo canto in un contesto un pochino diverso, quindi devo dire che alla fine il risultato è buono, insomma gli applausi ci sono, quindi devo dire che insomma va bene così, non ho avuto nessun tipo di problema, ecco. E allora non resta che andare a vedere The Blues Legend, il musical, fino al 22 ottobre sul palcoscenico del Teatro Nazionale a Milano. Grazie Loretta Grace e a risentirci. Grazie a te. E allora, abbiamo parlato anche di musical, di blues quasi brothers che arrivano sul palcoscenico a Milano. Adesso è il momento invece di parlare di cinema da vedere in casa. Siccome insomma avete fatto i Monelli settimana scorsa e non siete riusciti a trovare il film misterioso, indovinare il film misterioso, noi a questo punto abbiamo solamente da darvi un paio di segnalazioni TV per la prossima settimana. Ed è con noi per questo, come sempre, ogni settimana, Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Partiamo dalla Pianista di Michael Haneke sulla 7D lunedì 21 settembre alle 23.05. Sì, da un romanzo del premio Nobel Frieder Jelinek, un ritratto di signora girato da uno dei massimi registi, diciamo, teorici del cinema d'oggi, uno che con i suoi film ci ricorda sempre le nostre responsabilità di spettatore e ci inchioda ad esse. Qui racconta del lento sprofondare nell'abisso di una pianista molto rigida, inflessibile, decisamente borghese, figlia proprio di un milieu ben pensante che celebra in musica, e a cui nell'intimo però si ritrae sfogando le sue pulsioni masochistiche e degradando il suo corpo tra peep show, tagli autoinflitti e rapporto con un giovane studente. Veramente un film impensabile senza l'interpretazione straordinaria di Isabelle Huppert, che si offre veramente in maniera totale a questa via crucis di perversione che macera il cuore puro d'Europa. E che chiaramente porta in gloria un Michael Haneke che, come hai detto tu, insomma, è uno dei numeri uno del firmamento cinematografico internazionale contemporaneo. Salto indietro, ma salto in avanti nei giorni, mercoledì 23 settembre su Rai 5, 16:15, Olmi con la sua poetica normalità quotidiana firma I fidanzati. Sì, è uno dei primi lungometraggi di Romano Olmi, è uno a mio avviso dei suoi migliori, ed è la storia di un operaio che da Milano viene trasferito in Sicilia, dove si sente solo, sperduto e incapace di adattarsi, e dove ritrova paradossalmente, grazie alla lontananza e a una revisione di tutti i suoi valori, l'amore per la fidanzata lontana, un amore che ritrova radicato e profondo. Come sempre con Olmi siamo di fronte a un fine quadro d'ambiente, che è una caratteristica che fa dei suoi primi lavori delle testimonianze molto attendibili, quelle delle testimonianze storiche precise su squarci d'Italia in un determinato periodo storico, ed è mirabile davvero la sua capacità di far parlare l'uomo come prodotto di un contesto sociale e anche come materiale vivissimo e decisamente emotivo. E allora ricordiamo l'appuntamento alle 16.15 del 23 settembre su Rai 5 con I fidanzati di Olmi. Grazie Giulio, la prossima settimana ci sentiamo e cerchiamo anche di risolvere il game, che speriamo di avere abbastanza, come dire, spianato e aiutato in questa settimana. Alla prossima! Alla prossima e in bocca al lupo per la risoluzione. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata, l'appuntamento alla prossima settimana, come dicevo, molto ricca di nuove uscite in sala. Noi ci risentiamo, saremo qui come sempre a raccontarvele su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.